aprile del 2015. L'oggetto della circolare era la rinegoziazione dei prestiti. La circolare, come chi ha fatto, ha lavorato ecco, nella sessione con la commissione del presidente della dottoressa Girasole, indicava i destinatori, i destinatari, le caratteristiche dei prestiti rinegoziati, ma soprattutto nella procedura di adesione indica un periodo molto ristretto che andava dall'8 maggio al 22 maggio. Quindi diciamo che già in questa data siamo un attimino più superati, ma credo che siamo ancora nelle possibilità perché c'è stata anche una proroga. L'interessante ecco, era nella prima indicazione che ci è pervenuta dalla circolare del 1983, di far pervenire questa desiderio di adesione che nei termini del 27 maggio, quindi intorno alle 12 del 20 maggio, pervenire tutto alla Cassa dei Conti del Prestiti. Tutto ciò anche su sollecito, ecco, tutto ciò adesso è stato aggiornato perché abbiamo una riapertura che termina diciamo, fino al 1 giugno, una proroga fino al 1 giugno, e su sollecito da parte del dottore Puzzo, che ci ha portato in esame questa delibera, e alla quale io esprimo sempre il mio grazie per l'attenzione nei confronti dell'ente che va a grande sua. Delle sue decisioni e delle sue iniziative, un grazie personale che do di attenzione nelle riguardo dell'ente e dell'associazione. Credo che l'argomento sia stato oggetto dell'attenzione della commissione, il presidente Girasole credo che l'abbia fatto, però ecco, prima di dare la parola a lei, si doveva la parola al dottor Puzzo perché ce ne è inutile l'argomento. Presidente? Non ce l'ha? No, posso chiedere una cosa? Sì. Ho fatto soltanto il confronto. Perfetto, scusi. Prego. Sì, no, io volevo informare che come la volta scorsa volevamo registrare la seduta per poi renderla disponibile anche agli uffici. Quindi ho dimenticato di chiederlo, di dirlo prima. Sì. Mi ha fatto distrarre. Comunque, porto alla votazione della seduta precedente. Prego. Sì, io avevo necessità solamente di fare una precisazione riguardo l'ultimo punto sull'ordine del giorno per il reddito di dignità. Io ho presentato un documento che poi di fatto non ho letto, ma ho diciamo, espresso verbalmente, in cui ringraziavo un consigliere comunale di Roma e l'associazione che mi ha fornito la BOD su cui ho elaborato l'ordine del giorno, dicendo di essere iscritto a quell'associazione. Nel verbale è stato erroneamente riportato che l'associazione è Libera, che invece è l'intestataria della campagna. L'associazione in questione si chiama TILT. Si chiama TILT. T-I-L-T. TILT. Sì. Solo questo, era perché non ho nulla contro l'associazione Libera ovviamente, però mi sembra giusto dare i meriti a tutti, quindi rispetto all'associazione Libera, però al momento non sono iscritto, quindi è giusto anche che non... Grazie. Solo questo. Grazie. Allora, se non ci sono altre indicazioni, abbiamo la votazione per la convenzione elettorale sulla precedente, che l'accordo è ricevuto, in onore siamo. Argomento numero 2, attività espressiva. Chiede di parlare, prego consigliere Cappellani, a facoltà. Grazie Presidente. Io questa sera non ho interrogazioni, però ho delle interrogazioni verbali. E Presidente, chiedo a lei personalmente. La prossima volta che quella persona si presenta credendo, dicendo che vuole praticamente riprendere in modalità video e col sonoro il consiglio comunale, la prego di non darlo da questa sala, perché quella persona è un delinquente. In quanto, non so se lei è stata informata, ma la informo completamente questa sera. Non è stata informata. Benissimo. Allora, ha pubblicato su quel sito registrato praticamente in California, di cui praticamente è stato il sito cui questa amministrazione ha curato la campagna elettorale di 2 anni fa. Ha detto praticamente, ha messo parole che io non ho mai detto e che sono praticamente chiunque li può andare a riscontrare, mettendo praticamente sul sito che io avevo detto stronzi palazzolesi. Presidente, parole ignobili perché non sono state da me pronunciate. Io stavo parlando con la consigliera Spada a proposito della sagra delle fragole e si diceva praticamente su un discorso di partecipazione delle maestranze locali, e infatti rimarco la parola maestranze locali, non stronzi palazzolesi. Era questo la prima presentazione. Quindi la invito, Presidente, a non lo far entrare neanche in quest'aula, perché non è persona degna di entrare qui dentro dopo quello che praticamente ha messo in atto. Ma lo verificheremo, consigliere Cappellino. Lo verifico. L'ha verificato praticamente il consigliere Sicola, in tal senso, e altri consiglieri che erano presenti. Perché è lampante. E per giunta lui specifica anche il momento, che è al 9° secondo dell'inizio della seduta. Vergognoso, Presidente. Grazie, Presidente. Volevo continuare. L'argomento che lui ha ripreso, non vuole ricordare? L'argomento che lui ha ripreso era stato autorizzato per riprendere la questione dell'IMU. Sì, ma... invece lui ha ripreso tutto. Presidente, ha ripreso tutto. Ha ripreso tutto. Comunque, ma io dico che è il punto che noi abbiamo utilizzato la ripresa su indicazione del consigliere. No, anche nella sua stessa. Allora, vuole rendere tutta. Non sono aggiornato sull'argomento, di là che la responsabilità credo non sia una colpa della Presidenza, perché stiamo parlando di un commento fatto su un sito privato che io stesso ho letto, quindi non credo ci sia una responsabilità né di questo consiglio che si è espresso in maniera favorevole alla ripresa, né quantomeno della Presidenza che ha autorizzato secondo un regolamento che noi stessi ci siamo dati. Quindi questa una difesa la voglio fare. Tra l'altro, da quello che ricordo io, poi posso essere smentito anche in questo momento, non commentava la sua ripresa, che era esclusiva del punto per il quale era stato autorizzato, ma commentava la vostra registrazione, che invece era su tutto e sull'intero consiglio. Assolutamente. Consigliere Russo. Io non ho visto la pubblicazione del consiglio. Benissimo, allora la invito ad andare praticamente a visionare il sito. Presidente, poi l'altro argomento che mi interessava, ma come interessa penso tutti i cittadini della Zolese. Il signor Sindaco alcuni giorni fa ha emanato praticamente un'ordinanza relativa ai rifiuti, al conferimento dei rifiuti solidi urbani presso praticamente i gasdotti. È lodevole sempre l'iniziativa del sindaco che ogni anno praticamente riemette le ordinanze. Però solamente, signor sindaco, penso che le ordinanze, oltre ad emetterle, devono essere anche praticamente pubblicizzate alla cittadinanza, cosa che praticamente non avviene. E allora la invito in questo consiglio. Però io la invito, se invece di fare manifesto, anche spendendo qualcosina in più, Sì, si fa affiggere praticamente su ogni cassonetto, come sono affissi in ogni paese della provincia, l'orario praticamente quando il conferimento si può effettuare o meno. Sui cassonetti non è applicato praticamente nessun tipo di cose, quindi la cittadinanza praticamente non è informata, ma oltre alla cittadinanza anche le persone esterne che vengono praticamente a portare i rifiuti a Balzone. Questo è il problema nostro. Poi, signor sindaco, io all'incirca 2 anni fa, quindi già, sicuramente ce ne siamo anche dimenticati, in un'interrogazione le avevo chiesto come mai alcune strade di Palazzolo, e avevo portato alla sua evidenza la via 4 novembre, era praticamente al buio. Lei, in una risposta che mi diede, mi disse che era già praticamente in itinere la volontà di sistemare l'illuminazione su via 4 novembre, non appena si approvava praticamente il bilancio. Bene, il bilancio mi sembra che ne abbiamo approvati 2, ma via 4 novembre è sempre al buio. Allora la informo che il comune di Canicattini, se è un problema economico, il comune di Canicattini ha dismesso e ha messo in vendita i pali dell'illuminazione con i relativi corpi illuminati per un totale praticamente di 1.500 euro. Se è un problema economico, sì, 75 pali, va bene, con 75 corpi illuminati. Quindi se è un problema economico non vedo perché non possiamo praticamente acquisirle dal comune di Canicattini, e con il nostro praticamente chi è che cura l'illuminazione praticamente pubblica fa porre. Ma sì, sindaco, siccome praticamente da 2 anni che ne parliamo, e allora per evitare problemi io dico c'è anche questa possibilità, e così praticamente con una modica cifra, va bene, ce ne usciamo. Però almeno penso facciamo cosa gradita ai cittadini di questo paese che abitano in quella zona. Scusi, all'unico cittadino che non è servito nel non combatto, io di questa cosa lei sapete che è così, l'unico cittadino. E io sindaco di questa cosa non l'ho voluto dire, che era l'unico cittadino. Da questo punto di vista ho preso l'impegno che quel male in qualche modo lo metteremo, però non tutta la via novembre, 4 novembre è rimasto l'unico cittadino sotto. No, perché la cosa strana, sai, è sempre quella che si è illuminato praticamente fino alle case di nuova edilizia. Questa però. E tutto il resto è rimasto così. No, questa cosa però è importante. L'abbiamo fatto in riunione di urbanizzazione che sono entrate a seguito di quelle edificazioni. Abbiamo allungato di altre 2 valli a comunque. Abbiamo portato l'acqua e abbiamo rollato a salvare. Gli ore di urbanizzazione sono stati utilizzati in quella zona e non utilizzate altrove. Purtroppo non c'erano le risorse per poter mettere il terzo palo a servire quel cittadino qui. E io invece le dico, va, non c'erano, una volta che non c'erano le risorse, ci abbiamo praticamente l'opportunità con 2.000 euro praticamente di risolvere il problema. Gliele leviamo all'assessore al turismo che ne ha tante cose, e passiamo. Abbiamo capito che va bene, però non è una cosa per il cittadino, ma è anche praticamente per la cittadinanza. Allora l'idea dell'amministrazione è arrivare all'incrocio, perché l'incrocio con la circolazione è pericoloso. Comunque, sì, non è un'idea da scartare, perché i pali non sono da portamare, sono abbastanza, sono buoni, cioè quindi io non ho visto da 1.575 pali, e no, perché loro praticamente li devono, se no li rimangono, cioè il peso non deve, però giustamente lo si può, grazie. consigliere Cappellani, grazie. Sì, grazie. Io non ho nessuna interrogazione scritta, dovevo solo far presente tre argomenti. Allora, durante questa settimana, in realtà con l'urgenza di tentare di portarla già stasera, ma non ci si è arrivati, il gruppo di opposizione, che poi in realtà aveva anche intenzione di coinvolgere meglio anche la maggioranza, e ha presentato una richiesta per la convocazione di un consiglio comunale aperto con argomento il completando Figo Macello. Io se vuole le leggo, sì, ecco, lo leggo anche al consiglio. Sì, purtroppo non ci siamo arrivati nei tempi, però abbiamo preferito intanto presentarla lo stesso. Io stasera la ripresento e la metto anche a disposizione del consiglio, perché considero l'argomento di interesse di tutta la collettività. Penso che anche per i consiglieri di maggioranza sia importante anche capire alcune cose sullo per cui niente, la richiesta, vabbè, ve la leggo brevemente. Considerato che fra le infrastrutture previste nel patto territoriale per l'agricoltura è inserito un mattatoio sovracomunale di interesse del comprensorio montano degli Iblei, sito nel territorio comunale di Palazzolo. Considerato che, a quanto pare, i lavori di ultimazione dell'opera sono in via di conclusione e che, a breve, l'impresa costruttrice dovrà procedere alla consegna. Considerato che, dopo l'ultimazione dei lavori e il relativo collaudo, si rendono necessarie procedure di gestione certe e contestuali, immediate e non trasferibili a tempi successivi, comunque da definire prima della definitiva consegna. Considerato che, senza titolarità e criteri di gestione e senza adeguato servizio di vigilanza, l'opera è a forte rischio di vandalismi. Convinti che il mattatoio sovracomunale riveste un'importanza vitale per il territorio, determinando il rilancio economico dell'intera comunità con lo sviluppo integrato della filiera delle carni e conseguenti benefici sul relativo indotto. Convinti altresì che, con la definizione dei criteri di gestione, i 7 comuni principalmente interessati e costituenti l'Unione degli Iblei possono mostrare un reale esempio di operosità e di concretezza in materia di interventi strutturali che incidono sull'intero sistema socio-economico zonale, partendo in questo caso dall'agricoltura e dai prodotti di qualità. Prendendo spunto dalla relazione annuale del Sindaco e dalle successive osservazioni e proposte presentate sulla necessità di rendere massima informazione sull'opera mattatoio a tutta la cittadinanza, con la doverosa partecipazione istituzionale del Consiglio, in vista della conclusione di un'opera di vitale importanza per il territorio ibleo e di un percorso amministrativo ancora non definito, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono alla Signoria Vostra la convocazione in tempi brevi ed utili del Consiglio Comunale in seduta aperta al pubblico, al fine di consentire la massima informazione per tramite del Consiglio stesso alla cittadinanza e alle maestranze interessate sull'importanza vitale dell'opera, sui tempi di conclusione dei lavori, sulle modalità di gestione definite o su eventuali motivi ostativi che ne impediscono l'iter amministrativo. Ovviamente io questo lo metto a disposizione del Consiglio e se lo riteniamo opportuno anche coinvolgiamo anche l'Unione dei Comuni a questo punto, perché comunque è una cosa che interessa. Sì, infatti io speravo che riuscissimo già oggi a deciderla, così riusciamo anche a concordare. Magari va bene, certo. Magari anche in chiusura possiamo fermarci un attimo e lo concordiamo. Ok, vado avanti con gli altri due punti. Il secondo ha per oggetto una richiesta di commissione d'inchiesta presentata lo scorso consiglio. Mi era stato segnalato che era incompleta nella formulazione, però diciamo che verificando un po' da quanto previsto dallo statuto, credo che possiamo anche ribadire la volontà di lasciare al Consiglio stesso la facoltà di concordare il funzionamento di questa commissione, dando se il Consiglio è d'accordo a farla, perché si parla appunto di concordare i tempi, i poteri e tutto il resto che, per quanto riguarda il funzionamento di questa commissione. Si può pensare anche a una conferenza di capigruppo, non so, un gruppo allargato per decidere come farla. E la volontà è quella, perché noi vorremmo che fosse il Consiglio ad aiutarci a superare eventuali dubbi su alcune situazioni che a nostro avviso non sono chiare. Quindi speriamo, insomma, intanto che da parte del Consiglio ci sia la volontà a costituire. Noi abbiamo già detto che vi parteciperemo gratuitamente, per cui non avrebbe, almeno dalla parte nostra, non avrebbe costi per l'ente. E l'ultima cosa, e poi mi avvio a concludere, riguardo una segnalazione che mi è arrivata questa settimana. Dei cittadini mi hanno segnalato che c'è stato un piccolo incidente, credo nella zona di Colle Orbo, per dei lavori che si stavano facendo, credo per la fibra ottica. Pare, almeno questo è quello che mi è stato riferito perché io ero fuori sede, che durante i lavori abbiano rotto un tubo del gas, del metano, perché è stato riscontrato che non erano in possesso della mappatura delle tubature sotterranee e soprattutto pare che la tubatura non fosse a livello in cui doveva essere. E poi tra l'altro mi è stato anche detto che per la chiusura della tubatura stessa hanno dovuto attendere l'intervento della ditta, che non so da quale paese doveva arrivare, e anche che c'è stato un rischio concreto per persone e per operai che hanno avuto anche forse qualche infortunio, qualche presunto infortunio. Volevo capire se ci sono notizie più chiare, perché io ho avuto questa notizia un po' per sentito dire, però volevo sapere com'è andata effettivamente. E questo, grazie. Da questo punto di vista, buonasera a tutti, posso dire solo cosa mi hanno raccontato, perché chiaramente non è che sono stato, ho avuto il tempo di documentare. Posso dire che questi della fibra ottica sono stati autorizzati a fare questo scavo. Lo scavo lo stanno facendo con questa matrice, quindi che taglia dall'asfalto e fa questo scavo in sezione. In realtà, in alcune zone, e qui l'ufficio tecnico è stato nel generico, ma in ogni caso si era già raccordato con l'anacon gas. In alcune zone è stato vietato l'uso della riccia per fare invece lo scavo tradizionale, quindi in maniera tradizionale per evitare danni sotto servizio. Solo che l'ufficio tecnico è indicato genericamente le zone, dice nelle zone dove si hanno una maggiore presenza di sottoservizi e dove sostanzialmente questi sottoservizi non si ha una mappatura puntuale. Tra queste zone in realtà è stato portato genericamente, è stato riportato via con le opere. La ditta pensava, ma anche da qualcuno dell'ufficio erroneamente ha detto, dice, ma con le opere state attenti alla zona, la zona bassa di con le opere, dove oltre al tubo del gas abbiamo anche nella condotta idrica, abbiamo una serie di gas. C'è stato anche quello il problema. Sopra, in effetti, non si è tenuto conto di questo tubo, perché normalmente lo scavazzo in G avviene ad una profondità non superiore ai 30 cm, massimo 35 cm, e si è trovato questo tubo nel gas, quindi è piuttosto alto, quindi evidentemente in quel punto, per qualche motivazione ben precisa, che magari in questo momento l'ufficio tecnico è sfuggito, il tubo è stato messo un pochino più alto, per questo è successo, altrimenti non doveva succedere. È successo invece, oltre a questo discorso di tranciare nel tubo di gas, è successo che hanno tranciato degli allacci idrici, allacci alle abitazioni, perché quelli sì che in effetti in alcuni punti purtroppo sono messi a una profondità non superiore ai 30 cm. In due tre circostanze hanno dovuto ripristinare anche questi allacci idrici. Ma lì c'era una motivazione ben precisa, perché gli allacci erano stati fatti, le derivazioni erano state fatte un po' alte, c'erano problemi di altezza con la fognatura, quindi si erano tenuto un pochino alto. Per il resto, dopo che è successo questa vicenda, e so che tra l'altro l'infortunio per fortuna non è stato niente di particolare, cioè non è stata un'ustione pesante, è stato qualcosa al viso, ma di verità. Dopo che è successo da quel problema, è chiaro che a questo punto hanno proseguito lo scavo per il resto della via con le Orbo e anche su parte parte della 10 milioni dell'Africa non l'hanno fatto in modo tradizionale, quindi tagliando l'asfalto e poi intervenendo con il compressore, con il mantello pneumatico, quindi la cosa è rientrata. Ora, per rimanere in tema, vi segnalo che molto probabilmente ci sarà un problema su via carcere, perché su via carcere abbiamo le basole e chiaramente dove ci sono le basole l'ufficio ha detto non è possibile utilizzare una latrice, perché le basole vanno smontate una per una e rimontate poi singolarmente per evitare. Siccome lo so che questa tipologia di basola crea problemi, perché è una basola di quella vecchia che tra l'altro non è neanche diciamo livellata sulle due facce, ogni volta che devono rimontare queste basole è sempre un dramma, perché le basole, anche se ci sono degli attenti, diciamo così, muratori, alla fine quelle basole nel tempo inizieranno. Stiamo studiando, non può, dato questo input, però non so se è fattibile, di fare passare questa fibra ottica togliendo un cipione della panchina di via della carcere, quindi opereremo, togliamo il cipione e andremo a operare sotto il cipione. Però ho detto di verificarla questa cosa, perché io mi ricordo che via carcere da un lato sotto il cipione della panchina è passata la pubblica, quindi dovremmo utilizzare l'altro ciglione, quello che scendendo è spunto da destra, perché quindi poi all'altezza dove abbiamo i servizi igienici devono andarsi a intestare con un bozzetto che è presente e lì sostanzialmente c'è poi lo spazio del caricotto per poter utilizzare il caricotto che a suo tempo fu predisposto quando è stata fatta la ripavimentazione di Piazza Bruto. Quindi vediamo un po' come va a finire, perché quello è anche un altro punto molto delicato e fine del proseguimento. Sì, intendo sottoporre all'attenzione del Consiglio un'interrogazione sui servizi dell'Enel distribuzione, auspicando un intervento del Sindaco. Allora, i sottoscritti consiglieri comunali, premesso che da qualche mese i cittadini lamentano continui disservizi da parte dell'Enel distribuzione SPA, in quanto la gestione degli interventi nel nostro comune è stata affidata alla distante sede di Lentini, che ciò determina notevoli ritardi e disagi per i cittadini che richiedono i servizi dell'Enel, che nonostante i ripetuti reclami, l'Enel distribuzione non ha mai dato alcun fattivo riscontro, che sebbene siano previsti dalla legge gli indennizi nel caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi richiesti alla predetta società, il cittadino non è comunque adeguatamente tutelato, in quanto nella maggior parte dei casi l'Enel non provvede al pagamento spontaneo di questi indennizi e quindi il cittadino è costretto, l'utente è costretto ad adire le vie legali. Che stante l'interesse generale della collettività ad ottenere un adeguato e tempestivo intervento da parte della società elettrica, chiediamo al signor Sindaco di intervenire per porre rimedio a tale situazione, richiedendo all'Enel distribuzione di assegnare la gestione degli interventi sul nostro territorio alle sue più vicine sedi, site nel comune di Siracusa, ovvero di Avola, in modo tale da facilitare e garantire la tempestività dei servizi richiesti ai cittadini. Sì, tra l'altro io non richiedo, no, non la richiedo, quindi... Allora io ringrazio il consigliere Giardina, perché questo è un problema serio, e vi spiego perché è un problema serio. Intanto è avvenuto questo passaggio di competenze, senza che il comune ci fosse stata una preventiva comunicazione da parte di Enel, e questo passaggio è avvenuto, se io non ricordo male, agli inizi del mese di dicembre del 2014. Tutto un tratto, telefonando a Siracusa per segnalare un disservizio, comunque un problema che avevamo nel centro abitato, mi sono sentito rispondere da parte del tecnico, diciamo così, incaricato, il tecnico Dario, mi sono sentito rispondere sindaco, le competenze sono passate all'unità operativa di Lentini. Guardate, in qualche modo uno poi rimane anche un po' così perplesso, perché si passano le competenze senza che avvenga comunicazione alcuna agli enti interessati. Aggiungo che le competenze all'unità operativa di Lentini non sono passate solo per il comune di Palazzo Vacheri. Ci siamo ritrovati con l'unità operativa di Lentini, Palazzolo, Buscemi, Pucchere, e non ricordo se c'è anche casco del pello, ma credo che il casco del pello e un sortino siano rimasti invece a Siracusa. C'è una cosa di questo tipo, o è rimasta solo Calicattini, cattivi, deve essere dell'Unione, non mi ricordo bene. Sta di fatto che loro, non loro a livello locale, loro è diciamo una società a livello centrale, quindi a Roma, decidono questo spostamento in competenza con una certa diciamo, frequenza, e poi alla fine noi queste cose li veniamo a prendere dagli uffici nei periferici nel momento in cui telefoniamo per segnalare qualche disservizio. L'Eidel, ma anche la Telecom, non è nuova da questo tipo di comportamento, e aggiungo che c'è anche un altro comportamento che in qualche modo non è per niente edificante ai fini della continuità del lavoro, che è quello di far ruotare spesso nei tecnici. Cioè uno ha da fare per 10 mesi, 11 mesi con un tecnico, poi ammettiamo che c'è stato il cambiamento dell'unità lavorativa, tutto il tratto si trova un altro tecnico perché dice l'altro c'è stata una rotazione di questi tecnici. Quindi, certe volte siamo costretti a riprendere ragionamenti, a dover diciamo, inoltrare la nuova documentazione, perché poi il nuovo tecnico ce lo chiede per cortesia, perché se deve andare a rintracciare tutta la pratica perderebbe più tempo. Sono questi un pochino i rapporti che viviamo quotidianamente con l'EL, e purtroppo devo dire non è bello neanche ne raccontarsi, perché sono dei rapporti che non hanno il senso della, o il segno della continuità. Ora io per esperienza personale, se ci sono dei fatti specifici gradirete che vi fossero segnalati in modo tale che cerco di intercedere e di intervenire sull'unità operativa delle aziende, e chiaramente in maniera estremamente sincera mi hanno detto ne ha una via mutante se ce l'ha messo magari la zona parte della zona. Aggiungo pure che siccome dal 1 gennaio 2015 ne scadeva quell'accordo fatto a suo tempo con l'Enel, quando si passò nel servizio elettrico nell'Enel, la Palazzolo è stato chiuso senza che ci avessero dato anche qui una preventiva comunicazione, l'ufficio dell'Enel che c'era in via Scipione nell'Africano, e l'unico operaio di Palazzolo che prima diciamo operava in zona è stato spostato su Siracusa. Ma anche questa è una cosa che ho capito e ho saputo con un certo ritardo, questa addirittura l'ho capita ad aprile, quando cercando di contattare quell'operaio dell'EL, a un certo punto mi ha risposto dicendo ma io non sono più a Palazzolo, oramai opero nella provincia di Siracusa, e in ogni caso dipendo dall'unità operativa di Siracusa. Quindi c'è anche questa novità che purtroppo devo dire non è stato sicuramente un passaggio costruttivo per la nostra comunità. Quindi segnalatevi un pochino quelli che sono i disservizi, perché mi sono arrivate diverse diciamo istanze, diverse anche segnalazioni verbali. Io ho cercato con molta fatica di sottoporre all'unità operativa responsabile operativa delle entità, con la speranza che le risolvono al più presto. Ora alcune cose so che diciamo stanno lavorando per risolverle, di altre ancora devo avere risposte. Quindi volevo comprendere un attimo se sono cose che magari già ho segnalato o magari se ci sono delle novità, perché io così è un fatto pubblico, ho deciso anche su alcune cose di incaricare un legale, perché ritengo che la comunità di fatto ne viene danneggiata, e nell'ambito della comunità anche quelle che sono alcune attività produttive che esistono in alcune zone e sono costretti a lavorare tante volte in bassa tensione o comunque con problemi di tensione nella vita. Va bene, io verifico e le faccio sapere. Ringrazio grazie consigliere Giardina. Altri interventi? Altri interventi, passiamo all'argomento numero 3, rinegoziazione dei prestiti concessi ai comuni della cassa depositi e prestiti di società per azioni ai sensi dell'articolo 1, comma 537 della legge 6 dicembre 2014, numero 190, così come abbiamo avuto Grazie a lei. Buonasera a tutti. E allora, abbiamo proposto la rinegoziazione dei mutui concessi alla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi di questa nuova circolare che ha messo la Cassa, la circolare 1283 del 28 aprile. Ebbene, precisare che cosa? Noi abbiamo temporeggiato nel presentare questa proposta di rinegoziazione ancora al deposito perché fra le condizioni previste ai fini della rinegoziazione vi era l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2015. E quindi praticamente questo ha reso che cosa? Una partecipazione limitatissima da parte dei comuni a questa rinegoziazione dei prestiti, perché in effetti alla luce delle difficoltà, nella conoscenza fra virgolette dei dati reali, eccetera, i bilanci li hanno approvati un numero limitatissimo di comuni fino ad oggi. A questo punto l'ANCI cosa ha fatto? Ha richiesto nel decreto enti locali l'introduzione di un emendamento, di una norma che consentisse ai comuni, anche in esercizio provvisorio, di rinegoziare, di presentare la proposta di rinegoziazione. Qualcuno dice no, oggi che il decreto enti locali ancora non è stato emanato, però la Cassa Depositi e Prestiti con una nota tramite l'IPEL ha pubblicato una nota dicendo ai comuni che cosa? Chi è interessato alla rinegoziazione, a prescindere dal fatto che non abbia approvato ancora il bilancio, seppur nella circolare si tiene conto di questo, devono comunque presentare, far approvare al Consiglio la proposta di rinegoziazione. Alla luce di questo hanno anche effettuato una proroga che riguarda che cosa? La data del 1° giugno come termine ultimo, non per l'approvazione, ma per la presentazione della documentazione alla Cassa Depositi e Prestiti. Questo perché si suppone che il decreto enti locali dovrebbe uscire a giorni, eccetera. E comunque, ad ogni modo, la Cassa ha ricevuto queste note, ha fatto presente ai comuni, fate la delibera di consiglio, presentate tutte le queste documenti, andiamo alla e richiedete la rinegoziazione, a prescindere dal fatto che il bilancio non sia stato ancora approvato. Un'ulteriore, novità è che ha reso ancora più invitante questa rinegoziazione da parte dei comuni è il fatto che i risparmi di questa rinegoziazione, a differenza della precedente, possono essere utilizzati tra virgolette anche per spese correnti, cioè non necessariamente quando si fa una rinegoziazione vi è un risparmio, quel risparmio deve essere impiegato per spese in conto per investimenti, per manutenzione straordinaria, lavori pubblici, eccetera. In questa rinegoziazione è prevista la possibilità per i comuni, date le strettezze comunque economiche, eccetera, la possibilità di utilizzare questi risparmi per spese correnti. Attualmente questa proposta vale, varrebbe, secondo come è stata scritta, varrebbe per il 2015, però già qualcuno parla di poterla estendere negli altri anni, date le difficoltà dei comuni nel chiudere i bilanci. Qual è le condizioni per la rinegoziazione? Intanto è prevista anche la possibilità per quanto riguarda rinegoziare i prestiti già rinegoziati. E per i prestiti che hanno un debito residuo almeno superiore ai 10.000 euro e una scadenza superiore al 2019. Alla luce di queste condizioni, tutto quanto, ho fatto l'analisi prima dell'operazione di rinegoziazione in sé, in generale, per come potrebbe essere studiate e applicate nel nostro paese. E ho verificato che cosa? Noi ad oggi, allo stato attuale, abbiamo 38 finanziamenti, 38 mutui, per un totale di quasi 5 milioni e 400 mila euro. Con la rinegoziazione, noi, secondo le condizioni, possiamo rinegoziare 32 finanziamenti, quindi facendo che cosa ovviamente? Allungando per la scadenza, ma determinando questo allungamento, cosa? L'obiettivo che io ho fatto presente al sito per me, è quello di allungare sì la scadenza, ma a condizione che il tasso di interesse in questo allungamento si riducesse, tenendo conto delle condizioni favorevoli del mercato, il tasso di interesse diventa fisso comunque. Quindi il tasso che oggi noi veniamo ad approvare rimane fisso per tutta la durata del finanziamento, perché altrimenti se noi allunghiamo il prezzo e il tasso di interesse che sale, il principio di convenienza economica viene meno e quindi, come si dice tecnicamente parlando, qualcuno ha fatto chiudere, ecco la forza dei conti. Mentre tenendo conto del principio di convenienza economica, lei intende le condizioni di poter rinegoziare. La rinegoziazione cosa prevede? Ecco, dal punto di vista tecniche e pratiche, prevede una, intanto la possibilità di non erogare la Cassa Depositi e Prestiti a giugno 2015 la quota capitale in scadenza, ripeto, a giugno, che per noi equivale a 78.000 euro la quota di giugno. Questa quota di giugno comunque non la si paga a giugno, la si sposta a dicembre. Però a dicembre cosa avviene praticamente? Avviene che il debito, la quota capitale, il debito, diciamo, residuo alla data dell'1 luglio, quindi chiamiamolo già la negoziazione avvenuta, siccome questo debito viene, la quota capitale del debito viene rispalmata tutti questi anni, la quota capitale di dicembre per forza di cose si, praticamente si riduce la quota di rimborso, perché noi non andiamo altro a fare che ad allungare il debito fino al 2045, che comporta ovviamente da un lato comporta la riduzione del capitale, dall'altro comporta un aumento dell'interesse, ma per dicembre abbiamo un risparmio di 43.000 euro circa. Nel 2016 abbiamo un risparmio di 83.000 euro e lo stesso nel 2017. Questo avviene, diciamo così, questa quota di, tra virgolette, risparmio, avviene fino al 2029, perché dal 2030 in poi si ritorna alla situazione, diciamo così, cioè noi andiamo a pagare, ovviamente, quella quota capitale che abbiamo rimborsato, che abbiamo risparmiato, andiamo a ripagare negli anni, e ovviamente determinando il maggior interesse, perché è logico, se io un mutuo residuo di 100 in 5 anni, lo spago in 10 anni, la quota capitale si riduce, ma si riduce perché il valore attuale si riduce negli anni, aumenta per il tasso di interesse. Noi abbiamo portato i mutui ad una scadenza, quasi tutti in effetti, fino al 2045. Praticamente alla fine cosa succede? La durata di vita residua di mutui ad oggi sarebbe di 14 anni e 10 mesi. Quindi una durata media, secondo i calcoli che ho fatto, di 8 anni e 8 mesi. Con l'operazione di rinegoziazione, come io ho scritto, abbiamo un allungamento di ulteriori 8 anni, quindi tutti i mutui che scadevano nel 2030, in media, diciamo così, vanno ad allungarsi praticamente alla fine si allungano, la maggior parte allunga fino al 2045. Questo perché? Perché è un periodo inferiore, dato che i mutui hanno una scadenza già lunga di per sé, no? Che sono oggetto di una precedente rinegoziazione, dove avevamo allungato questa. Allungarla di nuovo comporterebbe questo tasso di interesse più elevato. Quindi per determinare questa riduzione del tasso, abbiamo fatto un'analisi molto precisa e alcuni scadrebbero nel 2045, altri nel 30 giugno 2035. Questa è l'operazione di, diciamo così, la convenzione dell'operazione di rinegoziazione per come è stata, diciamo così, presentata in consiglio, con tutti, diciamo così, sotto tutti gli aspetti, vantaggi, svantaggi, oneri e onori della rinegoziazione, perché consideriamo che non c'è, e questo è l'aspetto, diciamo così, ripeto, il risparmio del capitale, liberiamo le risorse, ma ovviamente è chiaro che negli anni andiamo a pagare poi negli anni gli interessi, eccetera. Va bene, ringrazio il dottore Puzzo. Io ho provato, andare. Sono fatto L'argomento è stato oggetto dello studio della seconda commissione, presidente dottoressa Girasole, e chiedo. Sì, è stato lo studio della seconda commissione bilancio, consiglieri di maggioranza hanno dato esito positivo alla proposta fatta dall'ufficio, i consiglieri di minoranza sono riservati per mandare in consiglio, e anche perché io devo dare un grazie al dottor Puzzo per la semplicità nell'esposizione della proposta e per la chiarezza, in modo tale che anche i non addetti ai lavori, insomma, hanno agevolato nel capire il passaggio che stavamo facendo. Il punto è prezioso per questa amministrazione, veramente. Ecco, al di là della valutazione prettamente economica e amministrativa, credo che ci sia una valutazione prettamente politica, per cui chiedo la parola al sindaco per poter parlare. Io per fare una breve considerazione, in qualche modo questa ristrutturazione del debito, superiore alle possibilità di ristrutturare il debito, a mio avviso scaturisce da una difficoltà dei comuni nel chiudere i bilanci previsionali, se non ci sono mezzi termini, non ci sono altre discussioni. E devo dire che nonostante questo vantaggio che dopo un'attenta analizzazione personalmente ritengo necessario, questi problemi si riducono, ma rimangono quelli che sono, diciamo, gli ulteriori problemi dettati da quelli che sono stati, diciamo così, le revisioni nei trasferimenti, soprattutto in questo caso nei trasferimenti statali, perché di quelli regionali dovremmo comprendere ancora alcuni passaggi. Volevo fare notare che quelli che sono, diciamo, i mutui in scadenza, quindi i mutui che sostanzialmente andranno a scadere entro il 2019, quelli che sostanzialmente sono state rilasciate, quindi mi pare che sono in tutto consegne di queste mutui, perché è il 28 che abbiamo, che stiamo andando a ristrutturare soltanto come debito, che stiamo ristrutturando soltanto il 33. Quindi in ogni caso, diciamo, la municipalità avrà, porterà in questa amministrazione, porterà a scadenza alla fine del mandato circa 6 mutui che chiaramente riproporranno la capacità di indebitamento per questo ente. Per questo devo dire che l'aspetto che mi ha lasciato riflettere tantissimo e che chiaramente conferma quello che sto affermando è che per la prima volta, perché io da quando vengo questa cosa, per la prima volta viene data la possibilità di utilizzare il risparmio per la competenza. Quindi questo significa effettivamente che è una di quelle cose che confermano che stanno cercando di dare una mano d'aiuto sotto, sotto forma di rinegoziazione del debito tra i comuni per cercare di chiudere i bilanci, e quest'anno è particolarmente difficile per tutta una serie di considerazioni che magari ne avevo detto in precedenza e che magari poi riproporrò in sempre proprio di diciamo discussione del bilancio previsionale di questo Consiglio Comunale. Ringrazio il signor Sindaco, mi chiedo aperto la discussione, mi chiede di parlare il consigliere Giardina, ne ha facoltà. Sì, allora volevo dichiarare che noi della minoranza esprimiamo voto contrario, in quanto è vero che la rinegoziazione apporta dei vantaggi nell'immediato, in quanto libera risorse, perché libera delle risorse, però pone un carico eccessivo sulle generazioni future, che praticamente i nostri figli, i nostri nipoti dovranno pagare per noi, per la nostra mancanza appunto di programmazione, per la mancanza di programmazione di questa amministrazione. La ringrazio. Se non ci sono altri interventi, chiedo ai consiglieri comunali di esprimere il voto sull'argomento numero 3, rinegoziazione dei prestiti concessi ai comuni della Cassa Depositi e Prestiti, società di operazioni, in sede dell'articolo 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, che da posto dovesse seduto o che non lo esse anzi. Contrari. Dichiaro anche di porre a votazione la MGR esecutività sull'argomento e dal conto del tributo che non lo è rinnovato. Approvato. Poniamo alla funzione del consigliere comunale l'argomento numero 4, rinvio al 2016 della contabilità economico-patrimoniale del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 3,12. 11 bis, 4 del decreto legislativo 118-2015. Chiedo al dottore Puzzo di poter relazionare sull'argomento numero 4. Rinvio al 2016 della contabilità economica che non si... Niente, praticamente ho ritenuto, infatti già qualche comune ha telefonato, ha chiesto questa delibera della versione. Siamo sempre bravi. Praticamente leggendo l'articolo 3, comma 12 e 11 bis, dice che i comuni possono già, diciamo, possono applicare dal 2015 la contabilità economica patrimoniale del bilancio consolidato, mentre la normativa, diciamo, del 126-112 rinvia questi solo due aspetti, mentre dice dal 2015 si applica il principio di armonizzazione. I principi di armonizzazione si applica il riaccertamento straordinario e il fondo credito di dubbia esigibilità e il fondo, questi si applicano nel 2015 fino a ieri almeno in tutta Italia, ora in Sicilia non sapremo cosa succede, no? Perché hanno emanato una norma, caso la Sicilia si invia tutto questo. quindi non da, ma i comuni, quindi che l'abbiamo fatto, l'abbiamo già approvato. E quindi, mentre per quanto riguarda questi due aspetti, che sono bilancio consolidato, il bilancio consolidato, per capirci, è un bilancio che consente alla cittadinanza di conoscere i dati dell'ente in maniera più leggibile, con, insieme ai dati delle società, diciamo così, partecipate dall'ente. E noi magari, ad esempio, nel caso nostro potrebbe essere l'ATO, piuttosto che se ci sono altre società con cui l'ente partecipa. E la contabilità economico-patrimoniale sarebbe invece la cosiddetta partita doppia, perché ha fatto la ragioneria, c'è la conoscenza materiale della costi, ricavi, c'è la situazione del posto fornitore, la merce contovente, in maniera che questi due aspetti io ho ritenuto, leggendo le norme, è bene che l'elenco con un atto specifico, come dicono, vi rinvia al 2016, perché è vero che dice l'ente possono, ma c'è la probabilità e il rischio che non rinviandoli nel 2016 tramite la Corte dei Conti, che sia il Ministero, potrebbe dire, visto che non c'è un atto che li ha rinviati, mi fai avere per cortesia il bilancio consolidato e la contabilità economica patrimoniale? Io ti dico, ma noi dobbiamo, ma erano rinviati al 2016, ma se leggete, ripeto, nella proposta, voi leggete scritto, i clienti possono dal 2016, possono. Quindi questo, diciamo, ha determinato una mia, diciamo, di eccesso di riserve, di precisazione, per rinviare questa cosa. I due aspetti non dobbiamo, che ripeto, ad oggi non sono previsti, no? Noi non li stiamo applicando, però leggendo le norme ti lasciano il dubbio su come procedere. E anche perché dicevano, non c'è neanche, non dicono qual è neanche l'organo preposto al rinvio. Siccome io ritengo che l'organo sovrano è il consiglio dell'amministrazione, è giusto che il consiglio prenda atto di questo, diciamo, rinvio. Io dico anche questo, noi abbiamo fatto ad oggi, in effetti, fra i pochi comuni abbiamo fatto rendiconto ordinario, abbiamo approvato il riaccertamento, abbiamo approvato, diciamo così, abbiamo determinato il fondo pluriennale, abbiamo determinato il fondo credito, eccetera eccetera, e vi dico la verità, e qua il sindaco lo sa bene, abbiamo letto l'altro ieri, la regione ha emanato una norma, la regione Sicilia, quindi neanche apparteniamo, diciamo, più alla parte, diciamo, africana, che ha emanato una norma dove, siccome la regione, io vi spiego, io ho seguito l'armonizzazione in maniera abbastanza precisa, è stata l'unica regione che si, dopo la prima seduta si è alzata dal tavolo tecnico a Roma, si è alzata e se n'è andata. Dice, niente, non interessa l'armonizzazione, ok? Cosa succede? L'armonizzazione è un principio, diciamo così, una norma nazionale per il coordinamento della finanza pubblica, perché consente di leggere i bilanci in maniera armonica, cioè in maniera univoca, ASP, regione, sì, comune. La regione di Sicilia, che ha fatto emanato questa norma, siccome non esiste ormai il commissario dello Stato, non esiste un commissario che possa impugnare questa, diciamo, no, è emanata una norma dove dice, in Sicilia gli enti rinviamo tutte cose al 2016. Io stamattina ho parlato col sindaco e gli ho fatto notare una mia preoccupazione di questa, scusate il termine, minchiata della Sicilia. La Sicilia intanto ha rinviato al 2016 perché ha paura di scrivere il fondo credito di esigibilità nei propri bilanci. Il fondo credito è quella quota da accantonare inerente ai crediti non esigibili, cioè di quei dubbi all'esigibilità, e la regione ne ha un'infinità. E se sta a fare un bilancio. Ma la cosa peggiore qual è? Ve lo dico veramente, io l'ho scritto questa cosa, l'ho mandata a un sito dell'assessorato, ma sicuramente non me ne fotte niente. Ho detto, in questo momento il decreto del Ministero che è uscito il 2 aprile ha rinviato, determinato la possibilità di ripianare i disavanzi tecnici derivanti da questo riaccertamento, quindi da fondo credito, cioè in massimo, numero massimo di 30 anni. E dice a partire la prima scadenza dal 2015, è così tutto. Bene, non parla dal 2016, quindi la regione ha fatto sta prova senza tenere conto di questo decreto. Cosa succede? Cosa rischiano i comuni? Che chi veramente rinvia al 2016 per l'applicazione di questo riaccertamento determineranno il disavanzo tecnico, come la maggior parte dei comuni, ma non avranno la possibilità, perché il decreto lo prevede, non avranno la possibilità di spalmarlo in 30 anni. Per chi non l'ha? Perché in quel caso dovranno ripianare il disavanzo in 3 anni. Dopodiché, se non hanno il progetto, non hanno il progetto, e poi vanno a discutere su questa proroga che ha determinato veramente un problema, cioè una confusione totale. Comuni che già l'abbiamo fatto, ce lo facciamo, non va. Io ritengo, l'ho parlato così, chi l'ha fatto un accertamento straordinario nel caso nostro, perché andiamo a ripianare il disavanzo, noi operiamo secondo il principio generale della essendo di legislazione esclusiva. Ma sì, no, è la ragione, è perché la regione, dopo vi detto, è stata la regione che si è più ha scorporato più di tutti l'introduzione di questo nuovo principio, perché i bilanci vengono e quindi io ritengo noi abbiamo operato, continueremo ad operare secondo la normativa, a meno che non arriva qualcosa che dici questo sì, questo no, ne prenderemo atto. Ma anche perché, Presidente, a maggio, a fine maggio, non può emettere la regione una norma di proroga quando l'adempimento partiva dal 1 gennaio 2015 dovevo applicare tutta la normativa. A maggio la regione non dice prorogare. E noi infatti vorrei capire questa cosa, non so, voglio capire. Il Ministero, proprio l'altro ieri, la finanza locale, il Ministero tramite il sito della finanza locale, ha mandato a tutti i comuni della Regione Sicilia, a seguito della strafosa Candiso, ha mandato una PEC dove chiede una certificazione firmata dal responsabile del servizio finanziario e digitale per sapere se hanno provveduto al riaccertamento straordinario o meno, perché in mancanza si avvieranno le procedure per lo scioglimento del processo. Noi abbiamo mandato il positivo, ma i comuni che non hanno fatto, che c'è la regione CPA, il ministero che dice, dottore Buzzo, mi contento l'espressione siciliana, manco le cane. Manco le cane, non viene da Brunato. Manco le cane. A volte penso, chi è seduto lì, veramente, chi è seduto lì, non trovo. Comunque sempre l'attenzione e la comunicazione. Chiedo di parlare sull'argomento, se non ci sono interventi, pongo alla votazione, l'argomento numero 4. Rinvio al 2016 della contabilità economico patrimoniale di bilancio consolidato ai sensi degli articoli 3,12 e 11,4 del decreto legislativo 118 del 2011, che è d'accordo che sia tutto per onore siamasi. Chiedo anche la votazione per la immediata eseguibilità dell'argomento, che è d'accordo che sia tutto per onore siamasi. Gradito convocare i consiglieri comunali nella giornata di domani intorno alle 12:30 per indicare la data del consiglio che ci è stato richiesto dalla minoranza e anche la data, credo sia così importante, del consiglio per indicare l'ammortamento che è intorno ai 45 giorni, che è il caso intorno al 14-15 giugno, quindi insieme decideremo. Vi ringrazio per la vi ringrazio per l'attenzione e la presenza. Grazie a tutti, buonasera a tutti.